Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Giusy Santoro di M2 Pictures, che distribuisce il film Rapina a Stoccolma al cinema da giovedì 20 giugno 2019. Giusy, ben trovata. Ben trovati a voi, ben ritrovati a voi. Allora, qual è la trama di questo film? Questo film devo dire che è una trama molto originale, ispirato tra l'altro a un incredibile caso di cronaca che è avvenuto nell'agosto del 1973, quando Jan-Erik Olsson aveva preso il controllo, era entrato nella banca Credit Bank di Stoccolma e insieme a un suo compare Olofsson tenendo in ostaggio 4 persone per 6 giorni. E questo diciamo fatto di cronaca vero, appunto, era stato poi riportato un anno dopo, nel novembre del 1974, al New Yorker, che aveva documentato questa incredibile storia in cui poi gli ostaggi di quella rapina finirono per legarsi ai loro sequestratori, addirittura rivoltandosi contro le autorità. E da questo fenomeno poi gli psicologi l'avevano definito come sindrome di Stoccolma. E questa è proprio la storia di Rapina a Stoccolma. Ovviamente è un adattamento, diciamo, della storia originale, quindi sono stati aggiunti dei personaggi, sono cambiati i nomi dei protagonisti, quindi Jan-Erik e Lass, che tra l'altro è interpretato da un magistrale Ethan Hawke, e Clark Olofsson è interpretato invece da Mark Strong, e anche diciamo, i tempi della rapina si sono diciamo, ridotti per motivi di sceneggiatura dai 6 insomma, della storia originale a 3 giorni. Però ecco, questa storia è molto interessante proprio per questo motivo, perché si racconta il paradossale rapporto tra il protagonista Lars e i suoi ostaggi, quindi appunto che hanno dato vita a questo fenomeno che oggi è conosciuto come la sindrome di Stoccolma. Quali sono a tuo avviso i pregi di questo lavoro? I pregi di questo lavoro, appunto, sicuramente il primo è proprio questo che ho detto, cioè la storia, perché anche nel promuovere il film e nel parlare del film con amici oppure con interlocutori, insomma, ho visto che erano molto interessati, molti non conoscevano da dove traesse origine diciamo, questa sindrome, quindi può soddisfare la curiosità di molti. Un altro pregio che secondo me rende il film molto, molto cool, unitamente all'interpretazione di Tanok, è questa ambientazione anni 70 che tra l'altro è diciamo, evidenziata da una bellissima colonna sonora. Si potranno infatti, guardando il film, ascoltare tante diverse canzoni di Bob Dylan, alcune di queste tra l'altro cantate dallo stesso Lars, quindi Ethan Hawke. Cioè proprio lo stesso attore ha evidenziato come secondo lui uno come Lars avrebbe sicuramente ascoltato un cantautore come Bob Dylan. La musica insomma, che ascoltiamo nel film è un modo anche per esprimere questo il fanatismo di Lars, che è un personaggio, come spero avrete modo di vedere in molti, sopra le righe. Quindi sarà anche un piacere non solo vedere ma ascoltare le canzoni presenti nel film. Questo regista nella sua carriera è stato anche produttore

che vanno in Albania a lavorare principalmente, ma non solo. A me sono quelli che sono interessati più, quelli che vanno a lavorare nei call center, sia come operatori che come team leader, che come insegnanti di italiano per i corsi di formazione per gli operatori invece albanesi. Mi sembrava un fenomeno interessante perché queste persone che vivendo in Italia non sono in grado di sopravvivere innanzitutto per la disoccupazione, per la difficoltà di trovare lavoro, ma poi anche lavorando nello specifico nei call center italiani, la loro paga è talmente irrisoria rispetto al tenore di vita italiano che invece andando in Albania con cifre del genere in realtà riescono a vivere più che dignitosamente e anche a fare gli scalini di carriera, diciamo, interna rispetto ai call center, che per loro sono fondamentali, insomma, e aumentano per l'appunto il loro tenore di vita. In realtà queste persone sono molto, almeno quelle che ho incontrato io, sono estremamente amareggiate del fatto che sono stati costretti sostanzialmente a prendere questa decisione, specialmente quelli che hanno famiglia, diciamo, proprio perché per la loro impossibilità di sopravvivere in Italia, insomma. Ed è questo il punto che mi è sembrato interessante, cioè raccontare le migrazioni non dal punto di vista di chi le subisce, come è normale nel racconto di giorni da cui siamo quotidianamente subissati, ma invece l'immigrazione come chi la esperisce, la vive come decisione dolorosa da prendere. E mi auguro che questo possa servire a tutti quegli italiani che fanno fatica a, come dire, empatizzare con chi deve fare una scelta così dura come quella di lasciare il proprio paese per le ragioni più svariate, ma in genere dolorose, e doversi per forza abituare a vivere in un altro paese in cui magari non sono poi neanche così bene accetti. Insomma, sembra quasi che l'immigrazione, il racconto che se ne fa anche oggi nei media, specialmente da noi in Italia, sia fatta quasi, non dico per farci dispetto, ma insomma quasi come una forma di spostamento semplice da un paese all'altro, di circolazione di persone, mentre invece è sempre un fatto molto doloroso, molto traumatico, che viene sistematicamente rimosso. Allora mi interessava raccontarlo da questo punto di vista in questo film. Come sei venuto a conoscenza di questo fenomeno e come poi hai deciso di filmarlo? Mi ha sempre incuriosito il mondo del call center, perché, apro una piccola parentesi, ma per completare anche la risposta alla tua domanda precedente, in realtà poi il film, a partire per l'appunto dall'esplorazione del mondo dei call center, quindi di chi dall'Italia si è spostato in Albania per fare quel lavoro lì, si pone anche come una specie di riflessione su il modello di sviluppo occidentale, quello che appunto l'Albania sta più o meno faticosamente, più o meno sgangheratamente rincorrendo a perdifiato, dopo essere passata appunto dal turbo stalinismo di Enver Hoxha al turbo liberismo, diciamo, degli attuali oligarchi che comandano e che decidono la politica e l'economia albanese attuale. Quindi l'Albania per me mi è sembrata un laboratorio un po' a cielo aperto, uno specchio distorto di tutte le orribili cose che sono insite nel nostro modello di sviluppo. Ovviamente questa è una mia, ma non solo mia, per fortuna, opinione. Quindi è come vedere in azione delle forze che magari nella nostra Europa sono più nascoste, ma sono ugualmente deflagranti. Lì sono nude e crude in qualche modo, con tutti i prezzi che un modello di sviluppo così scellerato può comportare. Per esempio lo scempio dell'ambiente, che ha una grossa parte anche nel racconto del film. Quindi, ti dicevo, ritornando all'idea di partenza, sono sempre stato molto incuriosito dai call center perché secondo me appunto sono una metafora perfetta del mondo ridotto a pura mercerologia, in cui appunto addirittura i numeri di telefono delle persone, le vite delle persone e tutto sommato anche le emozioni delle persone, perché si gioca molto sulle emozioni delle persone, sono ridotte a pure tabulati e come dire, indici di vendita o di ascolto, insomma merce sostanzialmente. Quindi mi sembrava una magnifica metafora di quel modello di sviluppo che appunto andavo a scandagliare. In più appunto applicata a un paese che appunto, ripeto, sta inseguendo questo modello e sta rapidamente compiendo tutti gli errori che abbiamo compiuto noi come Occidente cosiddetto avanzato negli anni passati, li sta compiendo tutti a grande velocità, anche se in isole del paese, perché chiaramente stiamo parlando di Tirana e in parte di Valona, cioè delle città un po' più avanzate rispetto alla realtà socio-culturale, economica e politica dell'Albania, perché poi l'Albania in realtà ha condizioni di vita durissime, molto molto arretrate, per cui queste città sono un po' come delle isole di sperimentazione di un possibile futuro, ma che è ancora molto lontano per loro per certi aspetti. Quindi l'idea è stata partire dai call center, anche perché avevo visto un articolo per l'appunto su uno dei personaggi di questo film, che si chiama Agron Shehai ed è il più grosso imprenditore della più grande catena di call center che c'è in Albania, l'IDS, vive fra l'Italia e l'Albania, e come dire, raccoglie in sé tutti gli elementi che sono nel film, nel senso che è stato un bambino tredicenne che nel 91, appunto, non sulla Vlora ma su un'altra nave, ha raggiunto l'Italia fuggendo dall'Albania, ha studiato in Italia, si è laureato, è andato anche a vivere per qualche tempo a New York e poi è diventato per l'appunto un grande imprenditore multimiliardario, ha la sua ditta, l'IDS in Albania fattura circa 20 milioni di euro all'anno, quindi è diventato in qualche modo l'emblema stesso di quel tipo di modello di sviluppo di cui parlavo prima. Partendo da quell'articolo ho cominciato un po' a scandagliare il mondo dei call center albanesi e ho fatto cortocircuitare nel film il racconto e quindi l'esperienza di Shehai con quella di un altro grande albanese che io già conoscevo perché ne avevo parlato in un altro mio film che si chiamava Diari del Novecento ed era Fatos Lubonia, che è uno dei più grandi intellettuali europei, direi contemporanei, grandissimo scrittore albanese e giornalista che si è fatto 17 anni di carcere nelle carceri di Enver Hoxha, nei campi di lavoro come oppositore del regime, e quindi era ideale per raccontare tutta la storia dell'Albania, diciamo post Seconda Guerra Mondiale, appunto dal turbo stalinismo per l'appunto al turbo liberismo di oggi, perché lui ha vissuto anche tutta la fase della transizione ed è attualmente una delle voci più rilevanti di diffidenza nei confronti anche dell'attuale governo, è veramente un uomo libero, un pensatore libero. Quindi nel film ci sono entrambe le narrazioni rispetto al problema, cioè che cos'è questo modello di sviluppo che stiamo da una parte seguendo, da un'altra parte inseguendo. Sono le due facce della medaglia, una ferocemente positiva e l'altra criticamente problematica, non in assoluto negativa, ma molto criticamente problematica e secondo me molto stimolante, che è quella di Fatos Lubonia, insomma. Che circuitazione farà? È uscita a Torino l'11, farà un po' una specie di tour delle principali città italiane, da qui alla fine dell'anno abbiamo tutta una serie di festival a cui il film è stato iscritto e a me interessa che sia visto soprattutto perché è una cosa a cui io tengo molto, per me in qualche modo è quasi più un film paradossalmente più sull'Italia che sull'Albania, nel senso che la cosa piuttosto inquietante che viene fuori secondo me da questo film, dai racconti che fanno gli italiani che sono migrati in Albania e degli albanesi che sognano ancora tutt'oggi di arrivare in Italia, sia pure con meno aspettative rispetto all'Eldorado che pensavano fosse una volta, in realtà questo film ci, secondo me, fa capire quanto l'Italia si avvicini all'Albania piuttosto che sia l'Albania ad avvicinarsi all'Italia, da mille punti di vista, anche dal punto di vista specialmente per esempio delle connessioni pesantissime fra mafia e politica, con il problema della corruzione sempre più profonda che irradia nei gangli vitali nel nostro paese esattamente come in Albania, il problema della gestione dei rifiuti che in Albania è un problema nazionale perché l'Italia vorrebbe esportare, non solo l'Italia, ma l'Europa in genere, ma far diventare l'Albania una sorta di pattumiera d'Europa, e nel film ci sono due meravigliosi attivisti di un gruppo che si chiama AKIP, di un'organizzazione non governativa che si chiama AKIP, che è un'organizzazione molto importante perché è riuscita una volta a impedire una legge che appunto permetteva all'Albania di importare rifiuti senza alcuna norma di sicurezza e che tuttora sta lottando contro la costruzione di grossi inceneritori che il governo albanese vorrebbe posizionare sul territorio loro anche vicino alle città, come del resto c'è una discarica che si vede chiaramente nel mio film proprio alla periferia di Tirana. Bene, ripeto, la cosa che mi colpisce di più e che secondo me studiare l'Albania ci fa capire tante cose dell'Italia e ci fa soprattutto essere non tanto fustigosi, non ci permette di pensare che la nostra condizione sia tanto migliore della loro. È proprio il contrario, secondo me. Cioè, in realtà noi ci dovremmo preoccupare perché nel nostro paese, specialmente in questi ultimi tempi, con le ultime derive giallo-verdi, insomma, giallo-brune, insomma, chiamiamole come vogliamo, ma c'è un imbarbarimento che assomiglia molto anche a quello che è la realtà quotidiana dell'Albania e che tra l'altro in questi giorni sta venendo fuori in modo molto violento, perché in questo momento in Albania c'è una grossa opposizione al governo, anche proprio per esasperazione dell'opinione pubblica a condizioni di vita sempre molto molto molto difficili, ma che invece, e anche questo è un altro argomento che il film tratta, fino a poco tempo fa e tuttora per certi aspetti molti media europei e particolarmente italiani hanno raccontato appunto una storia diversa, che l'Albania appunto era un paese in grande sviluppo, che viveva una sorta di miracolo economico, che è vero soltanto in piccolissima parte, in certe parti del sud, e comunque è un miracolo economico molto molto molto relativo e molto molto fondato su economie al limite tra illecito e l'illecito, insomma. È un discorso molto complesso, però ripeto, la cosa che a me preme molto è che passi questa idea che bisogna stare attenti a capire chi è che si avvicina a chi e chi assomiglia a chi. In chiusura, Stefano, ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Per quanto riguarda il film, voglio ricordare che è prodotto dal portale di Video On Demand, per l'appunto On Air di Roma, insieme a Rai Cinema. Allora, ricordiamo la proiezione Incontro con l'autore a Roma, lo spazio Apollo 11, giovedì 20 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Grossi. Un grazie, abbraccio in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi e venite in tanti. Ciao, ciao. Ciao, arrivederci. Regista Fabio Leli sul suo documentario L'Unione fa la forza. A Roma, al Cinema Farnese, proiezione Incontro con l'autore, giovedì 20 giugno 2019. Fabio, ben trovato. Ciao, ciao, buonasera. Raccontiamolo brevemente a chi ci ascolta. Il documentario tratta, diciamo, due tematiche che si intrecciano tra di loro, che sono quelle dell'omofobia e delle unioni civili. Diciamo che il film vuole essere un manifesto, un documento di ciò che siamo, del periodo storico in cui siamo e che stiamo vivendo, dopo l'introduzione della legge sulle unioni civili, che ha fatto esplodere paradossalmente, nonostante la conquista, insomma, di diritti, ha fatto esplodere ciò che, diciamo, nel paese da represso da un po', che è, diciamo, l'omofobia causata anche da una matrice, se vogliamo, cattolico estremista. Noi la raccontiamo nel film attraverso le interviste a esponenti e leader di questi movimenti, profemi, di pro-life, quindi riferimenti a Family Day, eccetera. Per quanto riguarda il tema dell'omofobia, dalla nostra parte abbiamo due belle famigliole di due papà e due mamme con i loro figli. Nel film c'è questa alternanza che dà un po' l'idea della fotografia del paese su queste tematiche. Già solo vedendo la fase storica che stiamo attraversando e già solo vedendo il tuo trailer, Fabio, quello che emerge è un macchiettismo per quello che riguarda le argomentazioni, però molto virulento e con potere, grosso potere. Purtroppo sì, diciamo che il macchiettismo è abbastanza evidente, però purtroppo a quanto pare va in questo momento, è anche a causa di quello che dicevi te del potere, perché questa gente qui, io non me l'aspettavo, però diciamo che il sentore ce l'avevo quando ho iniziato 30 anni, che la cosa sarebbe cresciuta. E infatti così è stato, perché basta pensare, insomma, al governo che abbiamo adesso, dalla parte, insomma, leghista soprattutto, che ha messo sotto la propria ala questi personaggi, cioè Gandolfini, che è il leader del Family Day, ormai diciamo che è al governo, ha piazzato anche parecchi suoi uomini tra Camera e Senato, basti pensare al senatore Pillon o al ministro Fontana, che sono praticamente degli uomini di Gandolfini. Anche lo stesso ministro Guissetti, che sono ministri comunque, ministeri comunque importanti, parliamo del ministro della famiglia, del ministro della scuola, quindi diciamo che il pericolo c'è, quindi questo film può essere anche, diciamo, anche un avvertimento a prendere coscienza del pericolo in cui siamo. Ecco. Come hai messo a confronto le due famiglie con questi personaggi nel tuo documentario? Allora, quello che volevo raccontare io per quanto riguarda le famiglie era qualcosa che a parole non si poteva spiegare, quindi ho seguito, insomma, la loro vita, la loro quotidianità, raccontando quello che succede praticamente in tutte le famiglie del mondo, ecco, noi per sentirle normali. Mentre dall'altra parte ci sono delle interviste molto libere in cui queste esponenti, questa gente esprime i loro concetti, dando sfogo, insomma, liberamente alla loro bugia, che è clamorosa, e soprattutto adesso stanno imparando a nasconderla dietro il messaggio del difendere la famiglia, mentre invece la matrice è chiaramente omofoba, e questa gente che ha quello come obiettivo, il fatto di togliere e negare i diritti alle coppie omosessuali. Che tipo di agibilità hanno queste due famiglie nel quotidiano? Ma quella che hanno per le altre famiglie, insomma, non c'è davvero niente di eclatante. Gente che si prepara per andare al lavoro, gente che va a prendere i figli da scuola, dall'asilo, che prepara la cena, cose molto comuni, molto semplici, ed è proprio quello che volevo raccontare, che queste famiglie non hanno nulla di speciale, per quanto possano esserlo, all'uomo medio della strada, mentre dall'altra parte è ecco lì che c'è il problema, perché come tu dal trailer già si intuisce, c'è gente, insomma, che è quasi folle da dire io, teorie molto bizzarre che poi si scontrano con questa silenziosità, questa tranquillità delle famiglie. Il montaggio poi racconta questo alla fine. È stato anche a Torino al Lovers Film Festival. Come è andata? È andata benissimo, insomma. Ieri c'è stata la serata finale del festival, abbiamo presentato il film giovedì sera ed è stato sorprendente, piacevole ricevere il premio della stampa, perché ovviamente è ancora più piacevole quando il film era fuori concorso, quindi è stata una sorpresa, quindi possiamo essere molto contenti del risultato. Il pubblico ha apprezzato molto, e a quanto pare hanno apprezzato molto anche la redazione della stampa, i giornalisti della stampa, che hanno assegnato questo premio per quanto riguarda appunto l'attualità del tema, che insomma è molto forte. Il titolo? Il tema satirico è onnipresente nel film, quindi anche a partire dal titolo, che sì, vuole giocare un po' sulla forza, sull'unione. Insomma, il messaggio del film è che l'unione fa la forza. Sì, diciamo che quello del video, anche se il titolo è quello, poi sul finale infatti cambia anche il titolo. Che percorso sarà in uscita? Allora, noi abbiamo fatto già 4 festival internazionali all'estero, più questo qui a Torino, all'Overs, in cui c'era l'anteprima italiana, e adesso aspettiamo un po' l'uscita nelle sale con un tour di proiezioni in cui speriamo di coprire più territori possibili. Abbiamo una piccola distribuzione che ci sta aiutando sul sito internet, ci sono tutte le informazioni, il sito dell'unionefallaforse.it, potete seguirci lì o sui nostri canali social, in cui comunque aggiorneremo tutte le tappe. Il regista Fabio Leli sul suo documentario L'Unione fa la forza. A Roma, al Cinema Farnese, proiezione incontro con l'autore, giovedì 20 giugno 2019. con Rafael Maniglia, co-direttore della 33esima edizione del Festival Mix Milano di cinema gay, lesbico and queer culture, al piccolo teatro Strehler dal 20 al 23 giugno 2019. Rafael, ben trovato. Ciao, grazie, piacere sentirvi. Facciamo una storia breve di questo festival per chi non lo conoscesse. Certo, il Festival Mix da 33 anni sul territorio milanese ha sempre avuto una caratteristica militante ma anche molto artistica, e quest'anno diciamo che il tema centrale è il Love Riot per celebrare i 50 anni dei morti di Stonewall, che ci sembrava giusto ricordare a chi lo sapeva, l'ha vissuto, e raccontare a quelli che di questa storia non ne sono ancora, ai giovani diciamo, no? E alle giovani generazioni. Dato interessante e positivo è un fiorire di festival in tutta l'Italia a tematica GLBT. Sì, certo, molto molto positivo, certo che il più si parla, il più si diffonde la cultura e l'arte LGBTQ+, e più la popolazione, la società inizia a capire e a gestire le cose con un po' più di leggerezza. Certo che Milano è una città conosciuta per essere molto tollerante, diciamo, mentre il resto dell'Italia diciamo che ha un pochino più bisogno di una spintarella. Quindi sì, direi molto molto positivo. Come si caratterizza l'edizione di quest'anno? Con il tema centrale Love Riot cerchiamo di portare anche una programmazione molto riot, molto militante e rivoluzionaria, con film che raccontano personaggi che hanno lottato per la propria esistenza, lottato per la propria libertà, ma non solo, anche quella delle persone che le stanno attorno. Quindi è una programmazione che cerca di portare agli schermi storie molto forti, molto significative, nonché storie d'amore, storie di amicizie e tante altre. Quante le opere presentate? Sono circa una sessantina di film, tra cortometraggi, documentari e lungometraggi, tantissime anteprime nazionali, anteprime europee, anteprime mondiali addirittura, e abbiamo fatto un ottimo lavoro di selezione, siamo andati ai vari festival intorno al mondo a cercare di prendere quello che c'era di meglio prodotto nell'ultimo anno. Le tematiche più insistite? Sicuramente quelle della rivendicazione dei diritti, quella sì, però appunto come dicevo anche storie d'amore, storie di amicizia e non solo. I paesi più vivaci da questo punto di vista? Allora, abbiamo due focus molto interessanti, un focus Canada, realizzato insieme alle giornate del cinema quebecchese in Italia, abbiamo un focus sui film americani, quindi con l'appoggio del Consolato degli Stati Uniti, però abbiamo tantissimi film anche del Sud America, abbiamo appunto il Festival Congressa, che è un importantissimo film brasiliano diretto da Armando Prasta con Marco Nanini, che è un attore di nome in Brasile, un attore molto importante. Qua con noi ci sarà Armando Prasta a presentare il film domani sera, quindi sarà il nostro film di apertura. Ecco, rispetto agli ospiti, le opere saranno accompagnate quasi tutte dagli autori? Le opere saranno accompagnate quasi tutte dagli autori, che arrivano a presentare i film, a conoscere il pubblico, a chiacchierare con loro anche sul sagrato, che come saprai abbiamo sul sagrato il solito Music on the Steps, quindi con DJ set e il bar per creare l'atmosfera che tanti aspettano una volta all'anno lì davanti allo Stelle per incontri e disincontri. Gli altri ospiti che avremo, oltre a quelli legati ai film, abbiamo le nostre queens, quindi Queen of Comedy Giuliana Del Sio, abbiamo la Nina Zilli incoronata Queen of Music, abbiamo una segnalazione del More Love, quindi abbiamo tantissimi personaggi, tantissimi ospiti che

del nostro red carpet e nel chiostro dell'Incoronata allestiremo una grande arena che ospiterà un migliaio di persone tra il parco, l'arena e un'area food, perché il concetto di fuoricinema è proprio quello di un luogo da vivere in assoluta libertà, dove si può arrivare la mattina e si può stare fino a sera, si può pranzare, si può chiacchierare, si può ascoltare musica, da vivere appunto in assoluta libertà. E inoltre, proprio per la ricchissima proposta anche di proiezione, in alcune giornate come il sabato e la domenica, già la mattina utilizzeremo anche delle sale di Anteo Palazzo del Cinema per proporre film e puntate di serie TV. Bene. E i riferimenti web per saperne di più sul programma? Tutto il programma su www.spaziocinema.com e su www.fuoricinema.com. È prevista anche la presenza di ospiti? Gli ospiti sono più di 100, quindi gli incontri sono, beh, non li ho contati, ma penso una sessantina, insomma, sì, direi, sì. Il cuore di Fuoricinema, quindi apriremo giovedì alle 17 con una conversazione con il sindaco di Milano Beppe Sala, perché il tema di quest'anno è l'amore, e questa conversazione si chiamerà per titolo Cuore Aperto, perché intendiamo chiaramente Fuoricinema come anche un piccolo contributo culturale e sociale per affrontare un po' questo momento storico particolare. E il giovedì, insomma, già credo che avremo almeno una trentina di ospiti tra cantanti, attori, registi, scrittori e via via, insomma, ogni giornata è veramente ricchissima da questo punto di vista. Sono tutti a maratona, ad ingresso gratuito ovviamente, per cui crediamo che possano soddisfare un po' tutti i gusti. Quarta edizione di Fuori Cinema, Fuori Serie a Milano dal 20 al 23 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Cristiana Mainardi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, vi aspettiamo, grazie. Con Patrizia Rappazzo, direttrice del Sguardi Altrove Film Festival a Milano al Teatro Franco Parenti dal 13 al 21 giugno 2019. Patrizia, ben trovata. Buongiorno, buongiorno Federico, grazie di essere ancora con noi quest'anno. A che edizione siamo? Siamo alla 26esima edizione, devo dire che è ancora una volta un anno record, un programma molto molto interessante, molto ricco, con tante anteprime italiane e europee e tantissimi ospiti, sono veramente molto contenta. La novità di quest'anno, queste nuove date all'inizio proprio dell'estate, è sicuramente una location nuova d'eccezione, il Teatro Franco Parenti, che accoglie appunto per 8-9 giorni il nostro festival in tre sale dedicate, dove appunto si svolgeranno momenti differenti della programmazione di quest'anno, che è scesa a compromesso un po' con il programma, la programmazione, la linea artistica anche del teatro che ci accoglie, per cui sicuramente cinema, corpus centrale della nostra manifestazione da sempre, regia femminile, ma poi la creatività femminile articolata e diversificata attraverso linguaggi diversi, quindi dal teatro, agli incontri, ai talk, alla letteratura, alla musica, ai laboratori di art counseling, scultura e art counseling, tutti comunque in linea con quello che è il tema fondamentale di quest'anno, che attraversa veramente tutte le sezioni del festival, cioè bellezza e coraggio plurale, femminile e contemporaneo. Questo è un punto di riferimento, una riflessione importante che il festival oggi porta su quello che sono le donne e quella che è il loro sguardo da un punto di vista dell'estetica e anche del fare. Quindi le donne guardano con un'attenzione particolare, chiaramente rivisitata, rivista da quella che è una differenza tra virgolette biologica, ma anche l'attenzione, il focus dell'attenzione sul fare delle donne. A proposito di creatività femminile, per chi non conoscesse il festival, spieghiamo un po' le sue ragioni, la sua caratteristica di fondo. Il festival nasce tanti anni fa con un obiettivo preciso, che era quello di promuovere la cinematografia al femminile e scoprire dei talenti e dare visibilità proprio a questo cinema che spesso era dimenticato. Oggi sempre di più, grazie anche poi a tutta la comunicazione in merito a questo, l'attenzione che è stata posta anche da vari festival internazionali, da Berlino a Cannes, a Venezia, eccetera, sulla necessità di dare spazio al cinema femminile, il festival ha ancora di più una sua motivazione, una sua ragione d'essere. È cambiato anche il linguaggio del cinema delle donne, il cinema delle origini era un cinema che parlava, come dire, delle donne, della vita delle donne, dei problemi delle donne. Oggi le donne raccontano di tutto, parlano della guerra, parlano delle situazioni sociali, parlano dell'immigrazione, parlano dei rapporti interpersonali, parlano della famiglia, per cui, come dire, i temi sono ampi e quest'anno naturalmente il festival riflette proprio su tutte queste tematiche e poi di fatto sono le tematiche che ci appartengono nell'attualità, nella vita di tutti i giorni e che, come dire, caratterizzano poi la nostra vita, al di là di quella che è l'ambientazione specifica. Il festival porta cinema da tutti e cinque i continenti, abbiamo oltre 60 titoli, 9 sezioni, di cui 2 competitive internazionali, lunghi e cortometraggi, una splendida vetrina dedicata al cinema italiano, 2 focus, uno dedicato a donne e tecnologia che si articola tra incontri, talk, presentazione di libri e cinema, e l'altro focus dedicato alle pioniere del cinema europeo in collaborazione con EUA Network, che è un network di festival femminile europeo, la Cineteca di Bologna e la Cineteca di Roma. Cioè è uno splendido anche omaggio ad Agnès Varda, che è mancata, come sappiamo tutti, qualche mese fa, e alla sua straordinaria e poliedrica vivacità creativa. Dicevi di altre discipline artistiche, ecco, le riepiloghiamo anche per chi ci ascolta? Sì, certo. Allora, noi abbiamo delle letture sceniche che sono incentrate proprio sul tema di quest'anno, una cura della Federica Sant'Ambrogio, la regia di Federica Sant'Ambrogio, con Annina Pedroni, dedicata a Bertellini e Gentileschi. Poi abbiamo una performance per un solo spettatore, nel senso che è uno spettatore che diventa protagonista attivo, quindi diventa attore a sua volta in una performance di Marcella Viscione, che fa rivivere la situazione claustrofobica del corpo della donna ingabbiato da secoli in culture che la imprigionano in abiti o condizionamenti che possono essere fisici e mentali. E poi abbiamo uno spettacolo di Lidia Grossi sul Senegal e sulla emigrazione di ritorno, cioè i senegalesi che ritornano a casa. E poi abbiamo tutta una serie di altri incontri dedicati proprio alla fotografia, alle nuovissime generazioni di fotografe, dell'editoria e del cinema, che è coordinata da Marta Stella, che si chiama Futura e che vede la collaborazione di nomi prestigiosi, compagnie prestigiose come Uragano su Milano, che appunto ha fatto una selezione di lavori di giovani fotografi. In realtà le fotografie di queste donne hanno già avuto alcune riviste internazionali, ma sono donne giovani. E poi la parte cinema dedicata in collaborazione dedicata alla scuola di cinema Luchino Visconti di Milano. Insomma, è un progetto quest'anno molto molto ampio, che ci amplifica anche in quello che è lo spazio fisico intorno al teatro. Teatro Franco Parenti si trova in una delle zone centrali della città di Milano e intorno ad esso, quasi in maniera naturale, sono sorte tutta una serie di strutture legate alla cultura, al cinema, al teatro, e quindi è proprio una vera e propria cittadella. E noi abbiamo distribuito la nostra programmazione proprio su tutta questa zona, in modo tale che anche la gente la viva in maniera, come dire, attiva. È una vera festa, così come sono i festival.

55esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema a Pesaro dal 15 al 22 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore Pedro Armocida, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto, Pedro. Grazie al lupo, grazie a voi. Ciao. Ciao. Con Giancarlo Visitilli, direttore artistico della 10ª edizione del Festival Cinema e Letteratura del racconto Il Film. Dal 15 giugno al 21 luglio 2019 in 6 comuni della Puglia. Giancarlo, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Lo raccontiamo dalle sue origini questo festival? Sì, è un festival nato un po' in continuità con quello che fa la cooperativa che organizza. Ho fondato 21 anni fa una cooperativa sociale che si chiama I Bambini di Truffaut, che ha in cura le bambine, i bambini, gli adolescenti, ex prostituti, figli di ergastolani, ammalati di AIDS e con problematiche sociali. Intorno a questo progetto, tra le tante iniziative che facciamo in Puglia ormai da tanti anni, è nato questo festival, è nato in un solo comune, Mora di Bari, e nel corso degli anni, nel corso dei 10 anni poi è diventato itinerante, nel senso che si è creata una vera e propria rete dei comuni del festival spontanea che di anno in anno ci chiedono questa iniziativa. Abbiamo puntato sempre dalla prima edizione a coniugare il cinema e la letteratura solo su temi sociali, tant'è che è considerato l'unico festival del Sud Italia che mette insieme il cinema e la letteratura, appunto coniugandolo a temi sociali. Per cui funziona che per quest'anno, alla 10ª edizione, diventa a tutti gli effetti un festival. Abbiamo previsto 3 sezioni, 2 di cinema, una di cinema prettamente sociale, uno anche avulso da temi sociali e la sezione che riguarda la letteratura. Nel corso dei 10 anni abbiamo avuto compagni di viaggio di grande importanza, ma è un festival che non punta semplicemente sulle star che sono attori, registi, grandi scrittori. Tra le star che noi invitiamo, appunto, ci sono spesso e volentieri associazioni che sono da Emergency a UNICEF, testimonianze di bambini, educatori, magistrati. Ecco, questo è il festival ed è itinerante in vari comuni della Puglia. Quanti sono i ragazzi e le ragazze di cui vi occupate? Sono un bel po', nel senso che da 2 anni facciamo l'esperienza forte di 15 ragazzine ex prostitute dai 13 ai 16 anni, con cui facciamo diverse iniziative e sono sempre presenti nell'ambito di queste iniziative culturali, per cui nel corso di questi 2 anni sono diventate anche appassionate di cinema, un po' meno di letteratura, però ce la faremo senza sforzarli, insomma, più di tanto. Poi abbiamo diversi bambini segnalati dai servizi sociali che il pomeriggio vengono in cooperativa e fanno i compiti, fanno laboratori. Gestiamo anche un progetto importantissimo in Puglia, che è il progetto pilota sulla legalità, che si chiama l'edificio della memoria. Diciamo che nel corso degli anni abbiamo costituito intorno a questa cooperativa senza inventarci nulla, nel senso che molti di noi, compreso me, sono passati da essere utenti dei servizi sociali a quelli che oggi rompono le palle ai servizi sociali. Leggo di 18 libri, 25 film e cortometraggi, tutti a tematica sociale quindi. Sì, sono 22 appuntamenti quest'anno, di cui 8 film in concorso, molte anteprime nazionali o solo per il Sud Italia, e 5 libri in concorso. In genere si lavora un intero anno per la cernita sia dei film che dei libri, mai come quest'anno, appena si è saputo che c'era un concorso, abbiamo avuto tante offerte, soprattutto dalle case di produzione cinematografica, ma anche di case editrici. Pensiamo anche non soltanto alle grandi case editrici, ma anche alle case editrici locali, per cui da quando esistiamo abbiamo sempre un'attenzione particolare alle piccole case editrici, qualcuna delle quali quest'anno addirittura abbiamo messo anche in concorso. Non prendiamo nulla a scatola chiusa, nel senso che qualsiasi cosa mostriamo alle persone durante le serate è stato già visto, visionato appunto, e, o comunque nel caso dei libri, letti. Le giurie, ci saranno una giuria popolare e una giuria di esperti. La giuria di esperti per quanto riguarda il cinema è presieduta da Francesca Einaudi, che è un'attrice, stata diverse volte nostra ospite, e invece la giuria degli esperti di letteratura affidata a Nadia Terranova. Mm-hmm. Per il secondo anno il festival entra nelle carceri, quindi lo portiamo anche nelle carceri. Abbiamo provato questa sperimentazione l'anno scorso, è andata molto bene, e quest'anno abbiamo aggiunto un carcere in più, per cui avremo le detenute di Trani, Turi e poi Bari, il minorile di Bari, ed è un'esperienza anche molto forte quella di portare il cinema e la letteratura all'interno delle carceri, però come luoghi in cui portiamo, sono a tutti gli effetti luoghi come le piazze, i castelli, cioè l'idea è non portare noi delle cose all'interno del carcere, ma considerare il carcere un luogo da aprire, aperto. Infatti la bellezza è portare la gente, il pubblico che si prenota, perché ci sono delle regole molto precise, e portare il pubblico nelle carceri. È prevista anche la presenza di ospiti, degli autori di alcune opere? Beh sì, abbiamo gli scrittori tutti presenti, tutti i libri che presentiamo hanno gli scrittori presenti, affidati sempre a un collega giornalista di varie testate, Corriere, Repubblica, Gazzetta del Mezzogiorno, ma anche testate meno conosciute. Poi la seconda parte della serata funziona così, ogni giorno cambia il tema, nel senso che può essere, che so, del racconto ai bambini. Allora si sceglie un autore che abbia scritto un saggio o un romanzo sul tema dei bambini, e nella seconda parte della serata invece un regista col cast che venga a presentare un film che ha come tema i bambini. Per cui chi partecipa a questo festival va via durante le serate con un arricchimento rispetto alle arti in generale, in modo particolare la letteratura e il cinema, su temi molto forti. All'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà, sai, parlare in estate, nelle piazze, gente che tornava dal mare sentiva parlare di prostituzione, di donne, di bambini, di cancro, è stata dura. Oggi invece abbiamo il problema contrario, di contenere le persone all'interno dei luoghi dove il festival si svolge. In chiusura ci dai i riferimenti web per tutte le informazioni? Su Facebook abbiamo una pagina dedicata al festival del racconto il film, poi sul sito della cooperativa www.ibambinidiciuffo.com, e oppure sulle pagine anche private, le utilizziamo appunto per veicolare tutti questi appuntamenti. Ci terrei a dire che già tanti appuntamenti importanti, il 21 luglio, con cui si è sempre chiuso il festival con la Notte Bianca del Cinema e della Letteratura di Puglia, consegneremo, sarà presente Marco Bellocchio col cast del film con il trattore, e consegneremo le chiavi della città di Mola di Bari a Marco Bellocchio. E allora ricordiamo la 10ª edizione del Festival Cinema e Letteratura del Racconto il Film in 6 comuni della Puglia dal 15 luglio al 21 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giancarlo Visitilli. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo, a risentirci presto. A voi, grazie, buon tutto. L'autore Emanuele Di Nicola sul suo libro La dissolvenza del lavoro. Presentazione a Roma all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico giovedì 20 giugno 2019. Emanuele, ben trovato. Sì, ciao Federico, intanto ti ringrazio per l'invito. Ci racconti un po' di questo lavoro? L'idea nasce da un gusto personale più che da un'idea vera e propria, ovvero io da molti anni seguo il cinema sul lavoro, i film impegnati sulla crisi, sulla disoccupazione, sulle questioni sociali. Nell'ultimo decennio ho visto di tutto, ho visto i film in giro per i festival, quelli che sono usciti nelle sale italiane, e ho visto una trasformazione radicale del cinema, perché come nel dopoguerra era nato un nuovo neorealismo in Italia, in questi anni mi sono reso conto che stava nascendo un nuovo cinema che andava a raccontare la crisi economica, in particolare dal 2008 in poi, dopo lo scoppio della crisi finanziaria e soprattutto dopo gli effetti della crisi sulle condizioni delle persone, quindi sulla pelle dei veri e propri cittadini dei vari stati europei e americani. A quel punto mi sono guardato intorno, ho visto che non c'era ancora un testo sul tema e ho provato io a tematizzare questo argomento. Ho preso circa 50 film che ritenevo più significativi, che sono usciti dal 2008 al 2018, sul tema del lavoro, il lavoro che manca e la crisi economica, e ho cominciato ad analizzarli. Per questo così è nata La risolvenza del lavoro, questo titolo che abbiamo scelto con l'editore di S, perché la risolvenza ovviamente è una pratica del racconto cinematografico, ovvero il momento in cui va in nero lo schermo e l'immagine scompare, e il lavoro sta vivendo proprio questa pratica negli ultimi anni, ovvero sta scomparendo, ma mentre scompare i registi tornano a descriverlo, tutti i suoi problemi nella disoccupazione, nella nuova povertà che avvolge le persone, nella precarietà e nelle situazioni più deboli. Quindi questa è un po' l'idea, diciamo, che lo ha fatto nascere come libro di cinema in particolare, nel senso che non è diviso, diciamo, per registi o per film, bensì per tematiche, perché è un libro che si sviluppa in 6 capitoli dedicati proprio ai singoli temi, quindi la disoccupazione, il precariato, i giovani, le donne, i lavoratori maturi, e poi a un certo punto c'è quello che al cinema si chiamerebbe uno scavalcamento di campo, perché c'è anche una parte, un capitolo dedicato ai manager, cioè ai dirigenti che hanno dovuto affrontare la crisi. Quindi, come vedete, è diviso proprio per temi. Nel capitolo sulla disoccupazione, per esempio, ci sono inseriti tutti i film in cui i protagonisti perdono il lavoro da un giorno all'altro e si ritrovano quindi ad affrontare situazioni difficili per loro inedite. Tanti sono i titoli che si potrebbero citare, insomma, per esempio c'è il dittico di Stéphane Brisé sotto il tema della disoccupazione, ovvero la legge del mercato e In guerra, che sono 2 film di questo regista francese che trattano proprio il tema della perdita del lavoro, operai che si ritrovano con la loro fabbrica chiusa, come accade nell'intreccio di In guerra, che è proprio appena uscito, insomma. E quindi il libro si propone anche come una sorta di Istanbul, perché prendendo in considerazione l'ultimo decennio ci troverete dentro molti titoli proprio che avete visto davvero in questi mesi, ecco, perché si ferma al 2018 e prende appunto quest'ultimo decennio, però insomma i film sul lavoro e sulla crisi stanno uscendo continuamente, insomma, e anche adesso, ecco, mentre stiamo parlando noi, basti pensare alle nostre battaglie, presentato all'ultimo Festival di Cannes, che è la storia di un sindacalista che lotta per tenere aperta la propria azienda e nel frattempo viene lasciato dalla moglie, quindi una crisi industriale che diventa crisi personale, è una doppia crisi che deve affrontare quest'uomo, sono tutte situazioni generate appunto dalla grande crisi economica. E quindi questo insomma è un po' il senso del libro, che fa dei grandi maestri come Ken Loach con il suo Io Daniel Blake, l'ultimo grande film che ha vinto nel 2016 la Palma d'Oro al Festival di Cannes, fino ai film più piccoli, più nascosti e anche quelli popolari. Per esempio in Italia ho deciso di dedicare uno spazio alla trilogia Smetto Quando Voglio di Sidney Sibilia, una trilogia che è rivolta a un pubblico commerciale, però si è imposta proprio perché racconta la storia di ricercatori precari che si danno al crimine, perché l'Italia è il paese dei ricercatori precari, coloro che all'università hanno magari delle competenze molto sviluppate, anche uniche e peculiari, però non ottengono un contratto, quindi sono costretti a una vita di precarietà e ad avere pochi soldi in tasca. Quindi insomma la risolvenza del lavoro è proprio una passeggiata del cinema sulla crisi, sulla disoccupazione, sul lavoro e sulla sua mancanza. Da quali aree geografiche? C'è un largo spazio al cinema italiano che viene esaminato un po' nel dettaglio, senza alcun approccio tra virgolette snob, che delle volte contraddistingue una certa critica, nel senso che io vado a vedere e a prendere davvero tutto, insomma, ho già citato Smetto Quando Voglio, che è una trilogia popolare, ma c'è anche Giorni e Nuvole di Silvio Soldini, insomma, c'è quello che io ho definito il call center movie, ovvero Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. Poi vado a esaminare anche le cinematografie europee, quindi una particolare attenzione per la Francia, grande cinema d'autore che ci arriva storicamente da quel paese, la Gran Bretagna, che ha una tradizione di cinema operaio che parte sostanzialmente dal secondo dopoguerra in poi, in particolare negli anni 60 si sviluppa con il movimento del free cinema, e quindi ha sempre avuto le vene di racconto di storie operaie, e oggi questa tradizione ovviamente si rinnova di fronte ai colpi della crisi, quindi Francia, Inghilterra, insomma Germania, tutta l'Europa. E poi c'è anche il cinema americano che si declina in due modi: da una parte in film hollywoodiani, come quelli più famosi, Il diavolo veste Prada, per esempio, è la storia di due donne che lavorano, che stanno in una redazione di un giornale, ma comunque anche è un film popolare, insomma, che ha ottenuto un successo planetario secondo un meccanismo hollywoodiano, racconta due donne che lavorano insieme. Mary Streep e Anne Hathaway nei loro ruoli, che sono poi diventati storici. Quindi cinema americano hollywoodiano e cinema americano indipendente, quindi i due punti davvero, insomma, della produzione statunitense. Per esempio, nel cinema americano indipendente c'è un film come Secretary di Steven Sheinberg, che racconta la storia di una segretaria maturista, perché il lavoro può anche essere rappresentato sotto metafora, e il masochismo, cioè la dominazione, la sottomissione, spesso è un meccanismo che si ritrova proprio nei luoghi di lavoro, in particolare nelle relazioni tra un capo e un dipendente, quindi Italia, Europa e Stati Uniti. Questi sono i tre grandi macro aree geografiche, insomma, che si trovano nel libro. È molto interessante fare un confronto fra loro, perché per esempio si potrà vedere come un lavoratore viene rappresentato dal cinema italiano e lo stesso tipo di lavoratore viene rappresentato dal cinema americano. Come sempre, facendo confronti si accendono parecchie lampadine, emergono differenze e si capiscono meglio le cose. Ho visto che c'è l'evento Facebook, ci dai altri riferimenti web per il libro? Sì, allora, intanto c'è il sito della casa editrice edsonline.it, in cui appunto si possono trovare gli estremi del libro, e chi è interessato lo può naturalmente acquistare. La presentazione ufficiale sarà, come hai già detto, mercoledì 15 maggio alle 20 alla libreria Troquanto di Roma, in via del Governo Vecchio 82, dietro Piazza Navona, praticamente. Questa è la prima ufficiale per la quale abbiamo scelto una storica libreria del centro di Roma, perché volevamo una sede suggestiva, insomma, per cercare di presentare al meglio questo progetto. Sarà una serata interattiva con proiezioni di clip, brevi clip da alcuni film citati nel libro, ci saranno letture da parte di un'attrice, diciamo, che abbiamo convocato per l'occasione, ci sarò naturalmente io, e ci sarà la redattrice della rivista cinematografica online Gli Spietati, che si chiama Alessia Storri, che dialogherà un po' con me, insomma, e mi interrogherà, come stai facendo tu adesso, sulla nascita di questo libro. Quindi spero davvero sia una bella serata, e la apriremo anche al pubblico, faremo un giro di opinioni, domande, insomma, perché poi è sempre interessante capire quali sono i film sul lavoro preferiti. Veramente ognuno ha i suoi preferiti, c'è chi è più affezionato, diciamo, ai film storici, alla classe operaia va in paradiso, e chi invece è innamorato più dei film del presente, quelli che raccontano i nostri anni, su cui il libro si concentra. L'autore Emanuele Di Nicola sul suo libro La dissolvenza del lavoro. Presentazione a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, giovedì 20 giugno 2019. Il regista Luigi Faccini sul suo documentario Radici, viaggio alle sorgenti della musica popolare italiana, in uscita in DVD con l'Istituto Luce. Luigi, ben trovato. Eh già, è una fortuna, per me sicuramente, sei un dato di eternità per me, quindi. Allora Luigi, che lavoro è questo? Ma sai, ho una formazione stradaiola e vengo musicalmente dal blues nero, dal jazz nero negli anni 60, quando, andando a Parigi per vedere i film, i capolavori alla Cinémathèque diretta dall'Anglois, e poi il mezzo tempo lo passavo alla Cinémathèque e mezzo nei negozi che vendevano i vinile